con Margherita Chiti di Teodora Film per parlare delle Invisibili al cinema da giovedì 18 aprile 2019. Margherita, ben trovata. Ciao, buongiorno, bentrovati. Lo raccontiamo brevemente? Sì, certo, volentieri. Allora, Le Invisibili racconta la storia di questo centro di accoglienza diurno per donne, senza tetto, le SDF come le chiamano in Francia, e questo centro viene chiuso perché i costi non sono più sostenibili e le volontarie che si occupano di queste donne decidono di aiutarle a reinventarsi, quindi a imparare un mestiere per riuscire poi a uscire da questo centro e essere autonome. Questo è un po' il succo. Quindi attraverso questa idea di plot si vengono a conoscere le singole storie e delle senza tetto e delle assistenti. Tutto in una chiave molto ironica, molto leggera, molto tenera e mai drammatica o insomma greve. Come Teodora, dove avete incontrato questo film? Allora, questo film l'abbiamo incontrato a gennaio a Parigi durante i rendezvous del cinema francese che vengono organizzati annualmente da Unifrance, che è l'azienda di promozione del cinema francese. Era fresco di uscita in patria e aveva già fatto quasi 10 milioni di euro, che adesso ha superato. E l'abbiamo visto in questa proiezione, ci siamo innamorati subito e l'abbiamo voluto. Cosa ti ha convinto maggiormente di questo lavoro? Guarda, sicuramente l'equilibrio, i personaggi femminili meravigliosi che sono descritti e interpretati veramente in maniera indimenticabile, e sicuramente l'equilibrio assolutamente difficilissimo e riuscitissimo fra tema sociale importante e ironia e leggerezza con cui viene trattato. È veramente un equilibrio magico che questo film e pochi film hanno. Tra l'altro, da quello che si vede in coda al film, le protagoniste non sembrano attrici professioniste. Infatti, a parte una, le attrici sono quelle che interpretano le assistenti sociali, mentre le senza tetto, a parte una di loro, sono tutte reali persone che Louis-Julien Petit, il regista, ha incontrato in un precedente lavoro come documentarista, sempre sulle SDS. Quindi sono attrici non professioniste che hanno esattamente quel passato lì, con cui lui ha lavorato tantissimo, ovviamente, perché insomma, non è facile Certo, poi. certo. Di Petit cos'altro sappiamo? Leggo che è anche scrittore. Sì, in realtà questo film viene da un romanzo di un'altra scrittrice, e poi lui ha un passato assolutamente di documentarista principalmente. E si vede nel film Sì, comunque, perché sì, il sì. suo approccio, insomma, ha quel piglio lì, ecco. Secondo me uno dei pregi del film è che non ha una soluzione tranquillizzante, pacificante, rasserenante, insomma, No, mantiene. non ha un happy ending nel senso tradizionale del termine, nel senso che un lieto fine era abbastanza poco credibile, Sì. però ha un happy ending comunque, si è visto il film, perché è Certo. comunque un finale felice in qualche modo, cioè c'è una felicità, c'è una riconciliazione, c'è un traguardo raggiunto, ecco, che ovviamente, cioè, non è scontato, però Certo. è molto più vero. Che uscita sarà? Allora, usciamo in 50 schermi, quindi abbiamo quattro sale a Roma, due a Milano, e due a Firenze, Bologna e in tutta Italia. Una bella uscita, siamo molto contenti. Abbiamo avuto una bellissima copertura stampa, davvero incredibile. Che tu sappia, al di fuori della Francia, nei cinema all'estero è andato e com'è andato? Allora, so solamente che è andato molto bene anche in Belgio, che è uscito praticamente in contemporanea con la Francia, come sempre, perché per motivi linguistici escono quasi sempre affiancati, ed è recentemente uscito in Spagna, dove sta andando abbastanza bene. E allora ricordiamo l'uscita in sala del film Le Invisibili da giovedì 18 aprile 2019. Un saluto e un ringraziamento a Margherita Chiti di Teodora Film che lo distribuisce. Margherita, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie il lupo, grazie mille.